Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Così ho cominciato a frequentare la più bella palestra in cui sia mai entrato. Il Boxing Club di Vercelli. Uno spogliatoio minuscolo e una sala allenamenti che entrerebbe in un garage, dove tutto sa di vecchio e di consumato. Mi chiamo Dario Sessone, ho 36 anni, vivo a Frassinello Monferrato, in Piemonte, in provincia di Alessandria. Sono architetto e ho una piccola impresa di costruzioni. E quella che sto per raccontarvi prima della storia di Dario, è una storia che parla di animali. Ho scoperto che ci sono, c'è una specie di lontre, non so esattamente come si chiamino, che vivono nel Quebec e fanno quello che fanno le lontre abitualmente, per cui costruiscono le dighe, credo, come fanno i castori, vivono nel bosco, mangiano, bevono e fanno le lontre, insomma. Però hanno un modo strano per capire chi è il capo delle lontre, perché non credo vivano in gruppo come i lupi, però insomma vivono in piccole famiglie, in piccoli nuclei da, mi pare, 5-10 lontre, e bisogna capire chi è il capo. E come fanno a capire chi è il capo? Come fanno tutti, giusto? Come fanno i maschi quando hanno bisogno di accaparrarsi una ragazza? Fanno una gara. Solo che di solito la gara la vince chi sta in piedi, giusto? Chi fa le battute più divertenti, chi tira i cazzotti più forti, e quindi alla fine, diciamo, si porta a casa il proprio trofeo. Per le lontre del Quebec, invece, la storia è completamente diversa. Le lontre del Quebec decidono chi è il capo in base a chi incassa di più i colpi. Cioè, voi immaginatevi due lontre che cominciano a darsele di santa ragione, e quella che rimane in piedi perché ha incassato di più ed è quindi è quella che è riuscita a prendere più pugni possibili, è il vincitore. Questa è la storia delle lontre del Quebec, che si avvicina un pochettino alla storia di Dario e tutto sommato anche alla storia di chiunque nella sua vita abbia preso dei pugni. Perché si parla di quell'oggi, 349-238-6666, oppure Matteo Caccia, io sono qui, se avete un profilo Facebook e se ce l'avete aperto in questo momento, tanto lo so che ce l'avete aperto, sarete in ufficio probabilmente, e sotto la schermata iniziale del vostro software di riferimento, se siete dei commercialisti, avete quelle cose lì di paga e contributi, sotto avete Facebook, quindi andate su Matteo Caccia, io sono qui, e scrivetemi la vostra storia, la prima volta, oppure quella volta in cui avete preso o tirato un pugno, ma un pugno vero, è proprio un cartone, in faccia, nello stomaco, magari avete schivato, vi ha preso un orecchio, che di solito fanno veramente male. 349-238-6666, perché la storia di Dario parla di questo, parla di pigliare i pugni, di darli e a un certo punto di smettere, quando ti accorgi che magari non è una roba per te. Già sono arrivate delle storie, delle brevi storie sul profilo Facebook, Sandro ad esempio, a dare un pugno, o per dirla in termine tecnico, a portarlo, sono capaci più o meno tutti. Incassarlo è un discorso diverso, appunto, vedi, come le lontre. E da come reagisci capisci tante cose su come sei fatto. Jorge, il mio maestro di box, me lo ripete spesso. 349-238-6666, che poi è la storia di Muhammad Ali a Kinshasa contro Foreman, no? Sapete, quando Muhammad Ali si ripiglia la cintura di campione del mondo e lo fa semplicemente incassando per 11 round e per 11 riprese di fila, incassando una fraccata di pugni da Foreman, che alla fine non sta più in piedi, lui si apre, gli tira due cartoni e questo va giù. Quindi se siete riusciti a incassare bene dei pugni, o se li avete presi e non li avete incassati per niente bene, o se li avete dati, 349-238-6666. Cioè, è arrivata una storia particolare. Senti, ma se io faccio una roba adesso, Paolino, se io ti chiedo una base in questo momento preciso, una base, guarda, ti dico, facciamo così, ti dico che storia è. È una storia che parte bene, a un certo punto piega male, ma poi si ripiglia bene. Secondo me tu ce l'hai, secondo me tu fai pure un mazzo così a quelli di DJ. Vedi che ce l'hai. Altro che farolfi, ragazzi. Bruno mi scrive: 30 anni fa, da Roma, giunsi in una piccola città del Veneto per il servizio militare. Una delle prime sere in libera uscita mi imbattei in un giovane tossicodipendente che stava picchiando quella che dopo seppi essere la sua ragazza. Non resistetti all'impulso e cercai di farlo desistere. Se la prese con me e facemmo a pugni. La ragazza non mi ringraziò neppure, Anzi, lo soccorse e andarono via assieme come niente fosse. Dovetti andare all'ospedale per suturarmi il naso e una mano. Per giustificare i segni della rissa e evitare una punizione, in caserma dovetti dire di essere caduto dalle scale. Ancora oggi sono convinto che il mio severissimo capitano sapeva tutto, ma fece finta di niente. Poco tempo dopo, conobbi una ragazza splendida. Fu amore a prima vista e al congedo decisi di rimanere in quella città e di non tornare più a Roma e costruire la mia vita con lei. 10 anni dopo, lei è stata chiamata in cielo. Oggi vivo felice a pochi chilometri da lì e di anni ne sono passati 20. Quando posso, porto un fiore sulla tomba sua e dopo percorro pochi metri e metto un fiore anche sulla tomba di quel ragazzo con cui tanti anni fa mi presi a pugni. Guarda, senza questa base, Paolino, sarebbe stata uno schifo questa roba. E invece, grazie a te e grazie a Bruno che l'ha scritta. 349-238-6666. La storia dei vostri pugni, che avete preso, portato, come scrive Sandro, che avete incassato, come Muhammad Ali in quell'incontro nel Congo belga, o Zaire che fosse. 349-238-6666. Ma la storia di oggi è la storia di Dario. Ci sono delle cose che solo da piccolo capisci. Quando io ero piccolo, molto piccolo, avevo detto con chiarezza a mio padre cosa avrei voluto diventare da grande. Erano 3 opzioni. Per ultimo, gli dissi l'architetto. E finalmente lì lo resi un po' più tranquillo. Poco tempo prima, però, ce l'avevo con il fare il camionista. Ma la prima cosa che io gli dissi fu il pugile. Me lo ricordo bene, perché eravamo a fare una gita al mare, in Liguria, e quell'affermazione così netta aveva provocato la risposta di un vecchio signore del porto, indaffarato con la sua barca. Mi guardò e mi disse: «Lascia perdere se non vuoi finire con il naso tutto storto come il mio». Lo fissai, e la sua faccia me la ricordo ancora oggi. Sono sempre stato un tipo ostinato, ai confini della stupidità. Del resto, sono piemontese. Anzi, peggio, sono monferrino. Siamo teste dure, che difficilmente cambiano idea. Non sono sicuro da dove da piccolo io abbia preso questa idea del pugile. Se di fatto probabilmente l'avrò presa in casa, magari da qualche commento che ha fatto mio padre o da qualche, magari visto in TV, da qualcosa che guardava mio padre, ed è da lì che ho preso l'idea. Ma essere sicuro del come sia nata non lo so. Quindi, anche se ero il primo della mia famiglia ad andare all'università, a 25 anni ero un ennesimo giovane ed incapace architetto. E sinceramente le parole di quel bambino mica me le ricordavo tanto. Eppure c'era una certa lungimiranza in quella incoscienza infantile. In effetti mi sono stufato molto presto di fare l'architetto vero e proprio. E quindi, al prezzo di una montagna di sacrifici e di paure, ho rilevato una piccola impresa di costruzioni, a cui era mancato improvvisamente il titolare. Ecco lì ho scoperto che a giocare con i camion e con gli escavatori mi ci trovo proprio bene. Non è come fare il camionista, lo so, ma in più di un'occasione mi sono trovato a pensare che forse quel lavoro lì poteva tranquillamente essere stato il mio. E quindi è stato così che all'inizio dell'anno scorso ho cominciato sempre più spesso a pensare a quel bambino là, al pescatore e a mio padre. E mi sono detto che forse avrei potuto provarci. In fondo sono sempre stato uno sportivo vero, non un atleta, ma di sicuro uno che non molla. Così ho cominciato a frequentare la più bella palestra in cui sia mai entrato, il Boxing Club di Vercelli. Uno spogliatoio minuscolo e una sala allenamenti che entrerebbe in un garage, dove tutto sa di vecchio e di consumato. Mi ci sono trovato bene fin da subito, la gente, il clima, gli allenamenti. Purtroppo a 34 anni non diventi un pugile, specie se sei pieno di responsabilità. Ma per come sono fatto io, non potevo prenderlo solo come un passatempo. Non potevo andarci piano, insomma. Dovevo almeno dimostrare a me stesso di reggere gli allenamenti, di essere al pari con i giovani, di tenere il passo dei più bravi. Io non ho fatto combattimenti, mi sono allenato con i pugili e in questo boxing club di Vercelli, che ho apprezzato moltissimo, e l'ho trovato davvero liberatorio, sarà riduttivo, però l'ho trovato bello, un bello sport da praticare, l'ho trovato ricco di emozioni, ricco di anche di tutto quello che è disciplina, tutto quello che è passione. Questa storia non è un film. Io non sono diventato un campione e non lo sarei mai diventato. Però il passo di quelli bravi l'ho tenuto, e come. Peccato che il conto da pagare è stato un gomito fuori uso. Ho passato 5 mesi a metterlo a posto. Mia moglie, che sa quello che dice e che mi conosce, mi ha già dato il suo ultimatum. Lo so che lo fa per me, però mi dispiace. Di sport ne ho fatti molti, ci sono sempre stato portato. La boxe è quella che ho scoperto per ultima e che ho praticato per meno tempo. E sinceramente non posso nemmeno dire di averla fatta fino in fondo, perché non ho mai combattuto un incontro, né lo potrò mai fare. Il limite è 33 anni. Ma sicuramente è lo sport che mi è piaciuto di più, ed è stato davvero un peccato averlo scoperto così tardi. Forse non sarei più bellissimo come sono, ma avrei fatto quello che volevo. Forse non avrei dovuto ascoltare il vecchio saggio, ma la voce di quel bambino, di tanti anni prima. Quando ero piccolo ho visto tutti i film sul pugilato, tutti. Toro Scatenato, Rocky, Lassù qualcuno mi ama, Rocco e i suoi fratelli, Il Colosso d'Argilla, insomma un sacco. E in ognuno c'era una storia di fatica, di povertà, di riscatto, di sofferenze, di errori e di redenzione, ovviamente. A volte finivano bene, a volte finivano male, a volte non si capiva. E siccome sono sempre stato uno che si immedesima molto, quando vedevo i film dei cowboy, prendevo il fucile in mano, quello finto che mi avevano regalato i miei a Natale, e mi mettevo dietro la poltrona a sparare agli indiani. E quando invece vedevo i film di pugilato, distruggevo il mio orsacchiotto, poi mi mettevo in guardia contro mio padre e lo prendevo a pugni in pancia, perché era lì che arrivavo. E quando lui a un certo punto mi diceva che anche basta, andavo in giro per la casa facendo finta di seguire il mio avversario immaginario, saltellando e colpendolo nel vuoto. Non l'ho mai considerato veramente uno sport. Forse non l'ho fatto solo perché nessuno dei miei amici lo faceva. E non era nella lista delle attività che si potevano fare a scuola, no, il pugilato. E quindi ho sempre pensato che fosse una roba per il cinema, per i film. E quindi ho giocato alle cose che si giocano da ragazzi, il calcio, il tennis, un po' di sci. Un giorno però, qualche anno fa, ho deciso che dovevo provarci a tirare dei pugni e soprattutto a prenderne. E quindi ho cercato una palestra, una che non fosse roba alla moda, però nemmeno che mi facesse proprio schifo. E ne ho trovata una. Mi aveva attratto un volantino sul bancone di un bar, una cosa senza troppe pretese. Le avevo viste già un po' e nessuna mi aveva convinto. Erano tutte troppo asettiche, pronte a trasformarsi in una roba tipo una salata salsa e merengue. Questa invece no. In questa c'erano Mimmo e soprattutto c'era Libero. Mimmo era il maestro di box, un agente immobiliare di giorno e pugile per passione di sera. Libero invece era quello che aveva fatto da sparring partner a Carlos Monzon 30 anni prima, a Roma. E come faceva ad andarmene? Mi hanno raccontato due storie di combattimenti, mi hanno presentato un paio di giovani agonisti e tutti gli altri allievi, gente di ogni età, di ogni provenienza sociale. Ecco, e lì in quel miscuglio di tatuaggi, di muscoli flaccidi, tipi bassi, alti, truci, spaventati, mi sono trovato a mio agio, come se fossi approdato in un luogo dove tutti hanno diritto di residenza, dove tutti devono fare lo stesso numero di addominali e l'importante, dopo una seduta di allenamento, era che nessuno si fosse fatto male. In pochi mesi ho imparato i colpi, le schivate, le combinazioni, ho rinforzato il fisico e ho scoperto cosa vuol dire dare e ricevere dei pugni. Mai al volto, perché questa è la regola di chi non fa agonismo. Però cercando di fare capire all'avversario di turno che l'avrei potuto stendere, perché ero più veloce di lui, perché ero più preciso, perché ero più forte. E a ognuno avevo messo tipo un nomignolo, una roba che mi aiutava a rendere più simpatici. Tipo il pellicola, era quello che si era presentato con il braccio fasciato di Domo perché aveva appena fatto un tatuaggio molto brutto. Poi c'era Magliana, quello che sembrava uscito da una puntata di romanzo criminale. Paparino era quello a cui ogni momento di pausa andava a togliersi il paradenti e parlava ai suoi figli. A Mimmo invece no. A Mimmo non avevo dato nessun nome. Era uno serio, era appassionato. A Libero nemmeno a parlarne, ovviamente. Uno che si chiama così non puoi altro che chiedergli di insegnarti come fa a fare la sua danza dei montanti ancora a 65 anni. Come fa a mantenere quel sorriso limpido dopo tutto quel pugilato? Come fa a rimanere appassionato dopo tanti incontri fatti? Ecco, quella è tutta gente che mi ha insegnato a scoprire la mia parte capace di cercare il proprio limite e che mi ha mostrato come combattere possa aiutarti a conoscerti meglio. Mi stava piacendo quel piccolo mondo senza ring, quell'odore cattivo però buono, quell'odore di guantoni usati, di sudore pulito. Fino al giorno in cui, per errore ovviamente, all'avversario che aveva di fronte è scappato un gancio che mi ha preso la mascella. Era un vero pugno in faccia, e anche se c'erano guantoni e paradenti, era comunque sempre il colpo di un pugile. E quel giorno ho capito che era ora di smettere, perché o sei pronto a prenderne e a darne, oppure tanto vale lasciar perdere. Era il mio limite e non volevo andare avanti facendo finta. Sono scomparso senza avvertire, perché un po' sono fatto così. Eppure avevo ancora 6 mesi pagati. Purtroppo va così. Ogni tanto anche ai migliori, anche a Tiziano Bonini, capita di cadere con uno scivolone orribile su The Eye of the Tiger. Scusa, poi tenermela su, Paolino. Perché questo pezzo che è Rocky, quale Rocky? 2, 3 forse. Vabbè. Questo pezzo qua lo usa Gagliani o chi per esso quando entrano i giocatori del Milan a fare il riscaldamento a San Siro. Questa roba qua. Poi ognuno giudichi un po', no? 349-238-66. Paolino, diciamo che mettiamo subito una base, eh? Oh, là. Sapevo che, in realtà lo so che voi tutti all'ascolto siete tamarri quanto Bonini e avevate alzato la radio e vi ha dato un po' fastidio che sia entrato sul brano, ma tant'è, abbiamo di meglio da fare. 349-238-6666. Mannam Cinaschi, ragazzi, se magari usate un nome vero per Facebook è meglio. Ho fatto a cazzotti per amore, non me ne pento minimamente, lo rifarei anche subito, anche se lei non la vedo più. E poi mi scrivono, e grazie Sandro in particolar modo, mi scrive Matteo: furono 8 le riprese a Kinshasa, non 11. The Rumble in the Jungle, questo è il nome che fu dato a quel incontro che venne combattuto di notte, mi pare, adesso correggetemi se sbaglio, di notte, perché potessero essere tipo le 8 o le 9 di sera negli Stati Uniti. La tattica usata: far scaricare Big George Foreman fino allo sfinimento per poi colpirlo usando le corde come una fionda e rope a dope. Ciao, benissimo. Se c'è qualche altro tecnico all'ascolto, siamo qui. 349-238-6666. Io però voglio risentire subito Dario, non tanto per le sue storie di pugilato, quanto per le sue storie di scavatori. Pronto, Dario? Ciao, Matteo. Ciao, come stai? Ah, abbastanza bene, grazie. Senti, tu, nonostante questa voce profondissima, hai la mia età, mi pare di capire. Ne hai 36 anni, sì. 36, quindi ne hai uno in meno. E sei... No, andavi a Vercelli a fare pugilato, però non sei di Vercelli, giusto? No, io non sono di Vercelli, però a Casale Boxing Club non c'era ancora. Penso che ci sia da adesso. E io comunque, così, prendo un po' di informazioni e, insomma, mi piaceva, sono andato a vederlo e mi piaceva quella palestra e sono andato. Ogni quanto ci andavi? Guarda, quando mi allenavo facevo... più possibile, quindi andavo da 2 a 3 volte la settimana. Scusami, l'allenamento cos'è? È prepugilistica e pugilistica? Cioè tu andavi sul ring, allora, li tiravi i pugni, no? Sì, praticamente, ma allora, non ho mai fatto incontri, okay. Come ho detto. Però diciamo che alla fine dell'allenamento, e faceva parte dell'allenamento, era fare i guanti, cioè quindi salivi, facevi le 3 riprese di allenamento con un altro pugile. Naturalmente erano i 3 istruttori che facevano in modo di calibrare la bravura, non solo il peso, ma la bravura del livello tecnico dei 2 che andavano ad allenarsi. Quindi nel mio caso era basso, perché io ero un principiante, però comunque si faceva il massimo che potevo aspirare era quello. Senti, era fare allenamento. E tua moglie? Mia moglie, che allora non era ancora mia moglie, mi sono sposato poi subito dopo, alla fine del 2010, l'ha presa come ha preso tutto il resto, bene, comunque poi alla fine... tutto il resto, così. Nel senso che ha preso il pacchetto, la scatola chiusa? Beh sì, la testa dura compresa. Quindi, senti, no. Invece parliamo degli escavatori, perché in realtà il sogno di ogni bambino è quello di avere una ruspa, no? Ma tu, il fatto che, quanti escavatori hai? Ma allora, diciamo, in ditta noi abbiamo dei mezzi di movimento terra e siamo sui 5-6 mezzi. Ma li usi? Ma tu cioè, ci scavi? Sì, li uso. Cioè ci sali, li usi proprio? Quindi sì, non sei solo il capo? Ma diciamo che io faccio la parte di Movimento Terra, che è una parte di tutto quello che facciamo, perché quando sei piccolo devi fare tutto, quando sei un'impresa piccola devi comunque fare tutto, la parte di Movimento Terra la faccio io con un'altra persona, un altro addetto in ditta. Però scusami, però davvero è che adesso mi sento quando avevo 12 anni e avevo le ruspe, che poi in realtà mi sembra che la vita di un uomo inizia e finisca lì, nel senso che a 12 anni bisogna avere la ruspa, a 80 vai a guardare i cantieri e l'escavatore. Sì, io facevo così con mio padre quando ero piccolo, comunque andavamo insieme a guardare, cioè, a guardare i cantieri, quindi... Cioè tu già da piccolo eri un po' umarelle e andavi a controllare i cantieri? Ma io sono ancora piccolo, nel senso che sono ancora così, e quello che mi dici tu me lo dice anche mia moglie. Ma li incontri, signori anziani? Quel tubo lì mi sa che non va mica bene, eh? Ma guarda che il pubblico serve, comunque, in tutti i casi. E a chi lo dici, guarda, figurati, a chi lo dici. Senti, hai dei figli? Non ancora, mi piacerebbe, ma non ancora. Ci stiamo pensando? Ci stiamo pensando, sì. Col pugilato però basta? In realtà il pugilato è una parentesi, basta dal modo di dire, perché appena basta entrare in un negozio di sport e vedere le magliette o i guantoni lì e scatta subito. Ti dico, può essere anche basta per me, ma non sarà sicuramente basta. Se avrò un figlio maschio vorrò che lo faccia, questo sì. Cioè tu vorrai che tuo figlio vada a prendere i pugni? Ma non è per verità. No, certo, scusami, la dicevo male. Io lo vedo meglio sull'escavatore, sinceramente. Comunque Dario, ti ringrazio moltissimo per la chiacchiera, per il racconto, e un saluto a te e a tua moglie. Grazie. E mandami una foto su un escavatore, oltre a quelle che mi hai mandato. Va bene, volentieri, te la mando. Ok, grazie mille. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie. C'è un detto, Pepi da Bergamo, c'è un detto che dice: ne ho preso un sacco, ma sai quante gliene ho dette. Adesso la borsa e poi voi siete qui. Sono il più forte. Voi siete qui. Nella foto che ci ha mandato Dario ha la faccia proprio dello sportivo, e ha anche un po' l'atteggiamento dello sportivo. Ha una magliettina bianca e un orologio di quelli che hanno gli sportivi, nel senso che lo usa per fare immersioni, probabilmente per cronometrare qualcosa. È probabilmente in vacanza, perché ci sono tipo delle palme dietro ed è su una specie di lettino da piscina. Ha uno zainetto pieno di roba, in mano un cellulare e dei Ray-Ban, ma di segni di pugni in faccia fortunatamente neanche l'ombra. Ma non lo capisci, io c'avevo un avvenire, io ero un combattente nato e potevo diventare qualcuno. Questo è Toro Scatenato, l'ho preso. Mi dicono, ti sei dimenticato tra i film uno dei più belli, che è Cinderella Man. Ma Cinderella Man è quello con... adesso mi venisse un nome, figurati. L'attore australiano, l'attore del gladiatore. No, quello del gladiatore. Dai, l'attore del gladiatore. Ragazzi. Vabbè, insomma, comunque è quel film lì ed è la storia di uno... Adesso, Paolino la fa facile, vai su Google, ci sarà qualcuno, no? 349-238-6666, l'attore del gladiatore. Quello lì che fa la parte di un poveraccio che vive a New York, è un espatriato e vince. Beh, però c'è, tra i più recenti invece c'è quell'altra storia, sì, The Fighter, esatto, bravo, stavo per... E adesso per riscatto dico anche il nome dell'attore, l'attore di The Fighter, certo, è Christian Bale, giusto? Sì, ha vinto anche l'Oscar, figurati. 349-238-6666, il pugno preso fuori da San Siro da un tifoso del Manchester United nel pre-partita di Inter-Manchester nel 99. Me lo ricordo ancora oggi. Vito da Crema. Ciao, sono un ex pugile. Ora il pugilato è la frutta perché c'è poca gente che combatte. Però c'è tanta gente che viene ad allenarsi. PS anche delle ragazze. E Vito lo dice quasi un po' schifato. Ma perché le ragazze fanno prepugilistica, che è una ginnastica che fanno in molti adesso. L'unico vero pugno l'ho preso dal mio portiere, ha sbagliato il tempo dell'uscita e mi ha centrato nell'occhio sinistro. E poi ringrazio Ale, che mi scrive, probabilmente per mandarmi un messaggio breve, mi scrive: ora il Milan non usa più Eye of the Tiger durante il riscaldamento sul campo, ma usa Sweet Child of Mine. Ed effettivamente, Ale, a sentirla così è decisamente meno tamarra di Eye of the Tiger. Insomma, dipende un pochettino dai gusti. Certo è che, insomma, uno la roba la usa per caricarsi, giusto? Esatto. Sì, oddio. in quanto a tamarraggine direi che per oggi abbiamo dato. 349-238-6666, ho preso un cartone sul naso mentre cercavo di dividere due dei miei ragazzi. Educatrice in oratorio, ok. E poi eccolo qua, questo, Andrea o André. In seconda media subivamo da mesi e mesi atti di bullismo. Un giorno mi ribellai e gli ho mollato tanti di quei pugni, che è stato uno dei giorni più belli della mia vita. Benissimo. Poi a proposito di Kinshasa, vabbè, sono arrivate un po' di delucidazioni riguardo all'incontro, che però adesso non trovo più, quindi non ve le dico. Però a proposito di Kinshasa è arrivato un messaggio di Gitro, credo che si legga, o Getro. Mi chiamo Getro, sono del Congo, di Kinshasa. Abito a Vicenza e da bambino mi facevo spesso prendere a pugni e a schiaffi dalle amichette a scuola. Sarà che Mohamed Ali ha lasciato il segno su di me. Questo messaggio mi ricorda un pochettino quel pezzo di cos'è? Aprile, credo, di Nanni Moretti, in cui lui a un certo punto è nervoso e dice: adesso mi fermo, fermo un automobilista e mi faccio dare un sacco di botte. Ecco, più o meno una roba del genere. Io ho provato a 32 anni a fare pugilato e dopo un anno di allenamento ho combattuto con un professionista che mi ha tempestato la testa di ganci. Uno gliel'ho restituito. La sensazione è incredibile, è fantastica. È puro istinto, continuerei, ma mi è venuta paura. Ciao Michele. E allora direi che non continueresti, Michele, se ti è venuta paura. Ma finalmente ci arriva in soccorso uno dei libri che solo Tiziano riesce a citare, devo dire. Durante le riunioni di redazione io e Margherita ci guardiamo e quando diciamo: cosa c'è, un'altra storia da raccontare simile a questa? Io e Margherita citiamo sempre dei film banalissimi, cioè io li cito, tipo Da Vacanze di Natale in giù, ma è perché sei Andy Romentino, mica peraltro, Margherita. Invece Tiziano Bonini, a proposito di questa storia, ci ha raccontato una storia molto più interessante, molto più interessante delle nostre, intendo dire, mie e di Margherita. È un libro di un sociologo francese che si chiama Louis Vauquin, giusto? L'ho detta? Fantastico. Cioè tipo Luigi Vacante, una roba del genere. È un sociologo importantissimo che adesso lavora negli Stati Uniti, insegna negli Stati Uniti, e che ha scritto un libro che si chiama Anima e Corpo. È un libro di sociologia, però in realtà è un libro di narrativa e lui ha una grande capacità di scrittura. La storia è questa qua. Lui, adesso vi dico anche in che anni, credo qualcosa tipo 20 anni fa, deve studiare all'interno del ghetto di Chicago, deve studiare la trasformazione dei rapporti tra Stato, classi e divisione razziale negli Stati Uniti. Cerca insieme al professore con cui lavora un luogo, il luogo adatto per studiare tutto ciò, e lo trova in una palestra che è situata in un angolo devastato del ghetto di Southside di Chicago. Insomma, lui va lì per studiare queste persone e per farne un'analisi sociologica. Poi invece si fa tirare dentro al pugilato, diventa un pugile semiprofessionista e scrive questo libro che, più che un'osservazione partecipata, è quasi un vero e proprio diario in prima persona. Sette settimane di preparazione, 50 giorni di travaglio e sudore, di smorfie, di dubbi ed entusiasmi tutti insieme, di monastica devozione. Macinarsi ogni mattina 10 chilometri nel freddo polare dell'inverno di Chicago. Miliardi di gesti, a volte minuscoli, semplici o complicati, ma sempre applicati, instancabilmente ripetuti e raffinati. E tanti colpi, dati, ricevuti, incassati e scansati. Questa sera salgo sul ring. Il momento della verità. Sono arrivati i Chicago Golden Gloves, il più prestigioso torneo amatori della città. Con la fierezza dei suoi quasi 70 anni, trascina nella sua scia la leggenda delle fastose fortune della nobile arte. Quando il Chicago Stadium e il Madison Square Garden di New York si contendevano le luci della ribalta pugilistica. Tony Zale, Sonny Liston, Cassius Clay. Lì vi hanno forgiato le prime armi, lasciato le prime rovine. Ansia, impazienza, che arrivi presto. Diventare pugile, prepararsi a un incontro, è come iniziarsi a una religione. Sacrificio. La parola ritorna continuamente sulla bocca del vecchio coach Didi, che in materia è un esperto. Mezzo secolo bruciato a percorrere in lungo e in largo il retroscena dei ring di Chicago, Los Angeles, Osaka, Manila, nel corso di una vita dal profilo delle Montagne Russe. Ha imparato il mestiere sotto la direzione di Jack Blackburn, l'allenatore di Joe Louis, che faceva la sua corsa quotidiana al Washington Park, esattamente dove vado io a correre ogni mattina. Allora mi scrivono: come fai a non citare Hurricane? Ma non parla della canzone però, no, credo sia un film, non mi ricordo come si scrive, ma è stato un gran film. Ciao Ale da Bergamo, tanto per cambiare. Guarda, è scritto giusto Ale, però ringrazio anche tutti quei 1500 che hanno deciso di spendere questi 10 centesimi di SMS per scrivermi che l'attore di Cinderella Man e di Il Gladiatore è Russell Crowe, scritto tra l'altro in molti modi diversi. Russell più o meno l'avete scritto tutti uguale, Crowe no. Un po', però sono convinto che sia il T9 che fa brutti scherzi. Ho preso un unico pugno alla mandibola e l'ho rotta. Non sono caduto, ma avrei tanto voluto svenire. Alberto. In The Fighter il pugile che riesce a sfondare è Mark Wahlberg, giusto. Bale è il fratello ex pugile tossico. La cosa bella di questo film è che alla fine si vedono i due fratelli veri. L'avete visto voi di là? Alla fine del film ci sono gli attori, appunto, Mark Wahlberg e Christian Bale, che recitano le loro parti, e visto che è una storia vera, durante i titoli di coda appaiono i due fratelli veri, che non assomigliano né a Wahlberg né a Bale, però improvvisamente Bonino dice di sì, dice un po' di sì, un po' si somigliano, però non lo so. Poi il problema è che quando vedi la realtà è sempre sembra sempre più interessante della finzione. Cazzotto pieno per dividere due donne, ma felice. Emanuele da Scandicci ha scritto anche un ha ha ha, forse sto con te riprendere. E l'ultimo, un unico pugno, mandibola rotta, è sempre quello, non sono caduto ma volevo svenire. Grazie a Tiziano Bonini, Margherita Ina, Paolino Corleoni e Stefano D'Andrea. La storia di oggi era la storia di Dario e parlava di pugni, quella di domani è la storia di Fatima e parla di vivere al rovescio. Al campo per la prima volta nella mia vita sono andata in piscina e mi sono divertita molto. Di notte sovente giocavamo in giardino con frisbee illuminati e di giorno in casa facevamo attività che generalmente si fanno all'aperto. I miei nuovi amici mi hanno fatto capire che pur avendo la mia malattia si può vivere tutto sommato una vita normale.